Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Torniamo a parlare questa sera di simbiosi industriale. È tornata quindi anche a trovarci Laura Cutaia del Dipartimento Tecnologie Ambientali dell'Enea. Buonasera Cutaia. Buonasera a lei. Allora, ieri abbiamo cercato un po' di spiegare che cos'è questa simbiosi industriale. In fondo è un concetto molto semplice. Le aziende nelle loro lavorazioni producono dei prodotti, ma producono anche degli scarti. Questi scarti vengono tipicamente considerati dei rifiuti e smaltiti. Invece questi scarti possono essere spesso utilizzati da altre imprese come materia prima. Il problema è creare queste connessioni, fare in modo che le aziende sappiano che possono valorizzare i propri scarti o che possono utilizzare gli scarti di qualcun altro come materia prima. E voi su questo state lavorando, mettendo in piedi, in particolare in Sicilia, una piattaforma che consentirà proprio questo tipo di connessioni anche logiche. All'estero abbiamo però già vari esempi piuttosto consolidati di questo tipo di processi. In realtà ce ne sono molti in Italia, è che non c'è un sistema strutturato per rendere sistematiche questo tipo di attività. Sì, allora, ci sono almeno un paio di esempi emblematici, nel senso che sono particolarmente significativi. Uno è il caso, scuola di simbiosi industriale, che è a Kalundborg in Danimarca, dove c'è un distretto industriale che è nato e cresciuto poi nel tempo, che ha sviluppato, che vive sostanzialmente con tutte le aziende che sono su quel territorio, che sono strettamente connesse ai rapporti di simbiosi, quindi ciascuna delle quali è interconnessa a questa rete con degli scambi anche fisici di materia, di vapore, eccetera. E questo è un distretto di simbiosi, un esempio. Invece c'è l'altro esempio, che è il NISP, il programma di simbiosi industriale della Gran Bretagna, che è un esempio che è più simile al nostro, quello della Sicilia, cioè un esempio in cui si fa una simbiosi a rete, chiamiamola così, cioè in cui si mettono in interconnessione vari interlocutori, varie aziende che possono partecipare a questo progetto e che poi possono trovare delle sinergie, cioè delle possibili soluzioni di simbiosi industriale tra aziende che possono essere o sinergie di tipo batch, cioè che avvengono una volta e poi avverranno la prossima volta con qualcun altro, sì, oppure di tipo continuo, per cui l'azienda in maniera continuativa fa un accordo con un'altra azienda e dice: io tutti gli anni ti do X e tu mi riconosci Y. Però in Italia questa prospettiva si scontra con alcuni problemi un po' strani, anche se purtroppo anche un po' tipici, no, del nostro paese. Mi sembra che uno di questi sia, la tendenza alla frammentazione amministrativa, che colpisce anche qui. Sì, la frammentazione amministrativa nel campo della gestione dei rifiuti comporta che, mentre in alcune province, per esempio, alcuni flussi sono definiti sottoprodotti e quindi possono essere venduti e commercializzati in maniera pacifica e assodata, in altre province magari questa cosa non è altrettanto pacifica, e quindi gli imprenditori che magari volessero vendere questi flussi di rifiuti si trovano in difficoltà perché non lo possono fare. Sì, se uno lo vende nella provincia sbagliata, quello che da una parte è lecito è reato penale addirittura dall'altra parte, dall'altra no? Parte, cioè questa è una roba da poco. Ecco, ci può fare un esempio del tipo di distorsioni che avvengono? Ma guardi, adesso io mi sto occupando di questa cosa, ogni tanto mi capitano articoli di giornale di cronaca che denunciano questi fatti. Tipico esempio in Sicilia è per esempio l'utilizzo del pastazzo, che sono gli scarti delle arance, che sono state date storicamente sempre agli animali come mangime. E invece adesso ci sono imprenditori che magari hanno gestito male la cosa, io non voglio entrare nel merito della vicenda giudiziaria, ma gli vengono contestati che è traffico illecito di rifiuti perché hanno conferito un pastazzo magari un allevamento. Ora, questa cosa chiaramente va risolta in maniera tale che gli imprenditori che vogliono fare simbiosi abbiano un percorso anche giuridico amministrativo trasparente, chiaro e inequivoco, che gli consente di fare questa cosa senza incorrere in problematiche anche di tipo penale e personale. Ricordo che recentemente l'ex ministro dell'ambiente Clini rivendicava il fatto di aver dovuto fare una legge nella quale si diceva che la terra è terra, perché tutte le terre di scavo erano automaticamente, fino a qualche anno fa, assimilate a dei rifiuti, con anche qui delle distorsioni pazzesche, perché poi se è veramente terra e nient'altro, non c'è motivo di metterla in un deposito, in una discarica, no? Sono successe queste cose. Assolutamente, io ho seguito anni fa, nel 98-99, l'alta velocità tra Firenze e Bologna, con uno studio sui materiali di scavo, e all'epoca c'era un'altra normativa, ma comunque quei materiali furono tutti quanti giudicati giuridicamente rifiuti e non utilizzati assolutamente, anzi messi in discariche temporanee che poi sono diventate definitive, rovinando probabilmente anche qualche situazione, qualche valle. Esatto, ma erano materiali di scavo del tutto analoghi a quelli che i cementifici andavano a prendere dalle cave in giro per il territorio, quindi marne o materiali alluvionali. Che hanno continuato a prendere dal territorio, quindi doppio danno, diciamo. Senta, di che quantitativi stiamo parlando? Si ricorda? Tra Firenze e Bologna erano 9 milioni di metri cubi. 9 milioni di metri cubi, una montagna praticamente. Una montagna, sì. Ci fermiamo qui. Grazie Laura Cutaia. Grazie a lei. Buonasera. È tutto, a lunedì.